ipocrisia. Tutte in televisione vanno dicendo che si è ucciso per depressione. Coppia in straccia il giornale, agente valigente che non lavorava, che cercava ma non trovava. Là stanno quattro figlie e la vedova signora in tragica disperazione. Ma tutto un bene Dio, vi dico che questa ipocrisia, e con questa modesta testimonianza, vi dico che il sottoscritto non ha mai ricevuto un'aiutanza. Più passo tempo e più si stringe il corampietto, più passo tempo e più assai ha paura e per lui che era paura. Sono nato padre, è solo che lo sa ce fa. E da mangiare a sta famiglia mia è l'unica cosa che mi dà felicità. Ma sono nato a parte sotto, a tua fatica non è diritto, te lei a cercare. E mo che mi ha gialluato, e da da vita mia, tu vuoi tu apparà, dicendo che è colpa mia. Poi mi mortifica, con la tua solita ipocrisia.